Letture di Radio 24. Nureddin Adnane, ambulante marocchino di 27 anni, è morto venerdì scorso dopo 8 giorni di agonia. Si era dato fuoco dopo che a Palermo i vigili gli avevano sequestrato la merce. Quel sequestro intransigente è, per Enrico Fierro del Fatto Quotidiano, una buffonata in una città dove i nessuno pagano per tutti i pupari. Nureddin Adnane è morto. Dopo 8 giorni di agonia, il suo corpo devastato dalle fiamme non ha resistito. Nureddin non era nessuno, perché era venuto da un luogo dove non sei nessuno, in un paese che considera nessuno chi è sbarcato sulle sue coste. Eppure Nureddin Adnane ce l'aveva fatta. Viveva a Palermo, dove il cielo, i profumi, le voci e i colori sono gli stessi di Settat, la città del Marocco dove era nato 27 anni fa e dove vivono la moglie e la figlia, che aspettano il pane della sua fatica di ambulante, regolare, con permesso di soggiorno e licenza. Una bancarella mobile da trascinare per tutto il giorno, fino a quando non cale il sole e la notte ti avvolge nella nostalgia di una giovane moglie lontana e degli occhi di una bambina che può sorriderti solo da una foto. Venerdì scorso Nureddin viene fermato dai vigili urbani. Controlli, documenti, il sequestro della merce. L'ennesimo, fatto dalla stessa pattuglia di vigili, denunciano tra le lacrime i suoi amici. Non resiste, è esasperato, si sente perseguitato e decide di protestare contro l'ingiustizia di quegli uomini in divisa che su di lui, sulle sue povere cose, sulla sua vita da niente, sulla vita di sua figlia, vogliono far rispettare la legge. Una buffonata a Palermo, città allo sfascio in mano ai pupari del potere che stanno decidendo a quale pupo consegnare il comune quando si voterà. Lo fa nel modo più disperato. Si cosparge il corpo di benzina e si dà fuoco. Muore dopo 8 giorni. Ucciso dal razzismo istituzionale, hanno scritto altri nessuno, su uno striscione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Palermo, era nessuno, si è dato fuoco, di Enrico Fierro, dal Fatto Quotidiano di domenica 20 febbraio. Letture di Radio 24. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato dall'edizione domenicale del giornale tedesco Die Welt, evita toni forzatamente ottimisti ed evoca il valore delle riflessioni preveggenti e pedagogiche di Pierpaolo Pasolini. Conoscevo bene Pasolini. Fu un poeta, un visionario, e le sue visioni erano spesso cupe, ma senza dubbio presagì alcuni sviluppi che poi si verificarono veramente. Il suo pessimismo non era del tutto infondato. Intervistato dal domenicale di Die Welt in vista del suo viaggio in Germania, il presidente Napolitano evita i toni forzatamente ottimistici che non gli sono mai andati a genio e sottolinea il valore preveggente e insieme fortemente pedagogico delle riflessioni di Pasolini. E se possiamo permetterci di decodificare le parole sempre molto controllate del nostro presidente, saremmo tentati di trasformare quel non del tutto infondato in un aveva totalmente ragione. Sono passati 35 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, ma i mutamenti avvenuti nella mentalità nazionale sembrano ben più che epocali. Dire che non siamo più disposti ad ascoltare una riflessione critica come quella dell'autore degli scritti corsari è poco più che un eufemismo. Oggi l'ottimismo è diventata una maschera da mettere nelle occasioni ufficiali, una specie di imperativo categorico, ma declinato nei modi più spicci e superficiali. Altro che Leibniz e il suo viviamo nel migliore dei mondi possibili, dietro cui c'era almeno una riflessione filosofica di non poco spessore. Oggi al massimo potremmo dire che tutto va bene, signora la Marchesa, e sperare che il nostro interlocutore non la scambi per una barzelletta. Ecco perché il richiamo di Napolitano merita di essere preso in seria considerazione. Perché abbiamo totalmente dimenticato il valore e l'importanza delle voci contro. Di chi non si accontenta dell'esistente, ma vuole sforzarsi di migliorarlo. Di chi si sente responsabile e corresponsabile della deriva in cui stiamo scivolando e cerca di opporvisi, anche a costo di passare per un guastafeste. E in un paese dove di feste ce ne sono fin troppe, ricordare il pessimismo di chi aveva intuito, con una lucidità davvero impressionante, i rischi cui andava incontro l'Italia, è un atto estremamente meritorio, che tutti dovrebbero sforzarsi di mettere in pratica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Se Napolitano evoca Pasolini e la sua preveggenza pessimistica» di Paolo Mereghetti, dal Corriere della Sera di lunedì 21 febbraio. Camille Paglia è stata la pecora nera del movimento femminista americano, ma anche una brillante provocatrice e nemica dichiarata del politically correct. Sostiene che l'utopia egualitaria degli anni 60 fu un errore sentimentale. Insomma, abbasso le nevrosi, viva la libido. Pecora nera del movimento femminista americano, ma anche brillante provocatrice, Camille Paglia sostiene che sul piano culturale le donne sono ormai molto più forti degli uomini. È diventata famosa nel 1990 con la pubblicazione del suo libro Sexual Persone. Nemica dichiarata del politicamente corretto, è impossibile classificare il suo pensiero seducente e irritante. Scrittrice, professoressa universitaria, lesbica che in passato è stata bisessuale, insegna all'Università delle Arti di Filadelfia dal 1984. Nata nel 1947 da genitori immigrati dall'Italia, la Paglia è cresciuta in una fattoria poco distante da Oxford, nel nord dello stato di New York. La sua relazione con l'artista Alison Maddox, di cui ha legalmente adottato il figlio, si è arenata l'anno scorso. Nella sua casa nei sobborghi di Filadelfia ha 8 linee telefoniche. Servono a gestire richieste per interviste o articoli, ma anche inviti a tenere conferenze o a comparire in trasmissioni televisive. Sembra sia più facile intervistare il presidente degli Stati Uniti. Gli strali della Paglia si concentrano sul vittimismo che secondo lei emana dal movimento femminista. «Liberiamoci dal femminismo da infermeria», proclama, con la sua baraonda di donne con il mal di pancia, anoressiche, bulimiche, depresse, vittime di stupri e sopravvissute all'incesto. Alla ribalta di recente per i suoi attacchi a Lady Gaga, considerata la negazione dell'erotismo e priva di reale originalità, Camille Paglia ha anche criticato la decisione delle industrie farmaceutiche di lanciare sul mercato un Viagra femminile. «La lussuria è qualcosa di troppo impetuoso per lasciarla al farmacista», sostiene questa pensatrice, che è a favore di una libido primordiale e non mediata, con tutti i suoi lati oscuri. A favore della pornografia e della prostituzione, la Paglia sottolinea l'importanza delle influenze ormonali nella vita delle donne. Sono posizioni che mandano in bestia le femministe. Il problema con l'America non è il sesso eccessivo, ma piuttosto i rapporti sessuali troppo rari, ha detto una volta al mensile Playboy. Si rifiuta di considerare gli uomini come nemici delle donne, perché, sostiene, invece le temono, ne sono profondamente spaventati. Mi considero femminista al 100%, ma in disaccordo con il movimento negli Stati Uniti, dice. Per me la grande missione del femminismo è arrivare alla piena eguaglianza politica e legale fra uomini e donne. Si oppone però a protezioni speciali per le donne. Le quote rosa la farebbero inorridire. Considera l'utopia egualitaria degli anni 60 un errore di stampo sentimentale. Ora apprezza le gerarchie, il potere suddiviso in graduatorie, secondo il merito e l'importanza. Convinta che all'interno delle mura domestiche comandino le figure femminili, è però scettica sul loro ruolo nel mondo esterno, dove tendono a rifiutare lavori molto impegnativi, in cui ci vuole senso di sacrificio, forza fisica o ci si sporca le mani. Nel pensiero della Paglia è centrale la necessità di recuperare il mistero nei rapporti fra uomini e donne. Nelle vite programmate ora per ora delle donne di oggi, madri, mogli e lavoratrici allo stesso tempo, teme non ci sia più spazio per una libido di stampo dionisiaco, quella sfrontata, passionale e trasgressiva dei tempi andati. In una società come quella americana, che ormai considera un complimento sopra le righe, al pari di uno stupro, la Paglia vede gli uomini di oggi come le vere vittime. Gli uomini ormai sanno di essere degli esiliati sessuali. Vanno a spasso per il mondo cercando soddisfazione, pieni di brama e di disprezzo, mai sazi. Non c'è niente in quell'angosciato errare che le donne dovrebbero invidiare, sostiene. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Camille Paglia, abbasso le nevrosi, viva la libido, di Delfina Rattazzi, da Velvet del mese di marzo.